i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Grazie, ma grazie, non ma come siete tutti carini, grazie. Eccolo qua. Grazie, allora, mi avete fatto questo scherzo. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, sveliamo che, ebbene sì, è il mio compleanno. Sono oramai diversi anni che compio 40 anni, continuo... Li porti benissimo, sì, stamattina sì, per celebrare ti sei pure messo gli occhiali da vista. Sì, che proseguo. Peraltro ti stanno anche bene, sono carini, una bella montatura. Oh, ti ringrazio molto, cara Debora. Allora, ma se possiamo volete... favorire ai nostri ascoltatori il dono che ti ho portato, a cui tengo moltissimo. Ma certo, vediamo, allora, da Facebook solo possono vederlo. Però. Invitiamo tutti gli ascoltatori a seguirci su Facebook. Oggi un sacco di informazioni, di servizi e un po' di pubblicità anche. Oggi in occasione appunto della ennesima volta in cui compio 40 anni, perché mi sono trovato bene con i 40 e quindi vorrei replicarli molto spesso e lo sto facendo. Infatti sono stato anche messaggio promozionale omaggiato dalla mia socia Debora Rosciani di questo splendido rosso conero. Benissimo, non possiamo dire la causa, però terra, no, non esatto, lo diciamo, però io ne ho sempre per tutti i compleanni, sempre disponibile del vino marchigiano a casa mia. Ottimo. Immaginavo. Purtroppo allora, la bottiglia è rosso nera, so che non è il colore di tuo gradimento, ma questa avevo stamattina. Vabbè, ma adesso non stiamo a guardare il capello, come si dice. Ringrazio naturalmente anche Marco Auguroni. Lombardo e Giulia Lauricella e anche Paolo Corleoni, che mi sa hanno grossa responsabilità in questo scherzetto iniziale. Io vorrei ricordare che quando ho fatto io il compleanno, Oscar Giannino e Alessandro Milan mi hanno festeggiato per 3 giorni, quindi da oggi a mercoledì minimo le tue celebrazioni andranno avanti. Te lo dico già, esatto, perché allora, è una tradizione, guarda, che si rispetti. Facciamo così, oggi festeggiamo parlando del BTP Italia, ma guarda, ma domani festeggiamo con la Tari. Ecco qua, togliamoci un po' sto sassolino dalla scala, perché qua sembrano sempre tutti bravi e invece più bravi siamo noi. Diciamolo, perché allora sul Sole 24 Ore il 19 ottobre e a Radio 24 specialmente a 2 di denari il 20 di ottobre, il giorno successivo. Esatto. Lo dico perché se andate sul sito di Radio 24 www.radio24.it ripescate quella puntata, noi vi abbiamo spiegato che occhio, potreste aver pagato troppo di Tari, perché è stata calcolata la parte variabile anche su box, cantine, garage, ecco, e quant'altro. E anzi c'era qualche indicazione, qualche istruzione per poter andare a rompere le scatole al sindaco e chiedere un eventuale rimborso, no? Quindi già delle istruzioni circolavano, quindi non è che tutti hanno fatto negli ultimi giorni, tutti i colleghi giornalisti. Noi la notizia l'avevamo già ben preannunciata da tempo. Anzi, in realtà voi del Sole 24 Ore da mo' che avevate scoperto l'inghippo. Diciamo che questa cosa qui ci sospettava, c'era venuto il sospetto già nel 2014, che poi è stata l'origine della famosa interrogazione parlamentare, perché appunto spiegando il meccanismo della Tari in alcune pagine di indicazione, di istruzioni, di quelle che facciamo spesso sul Sole 24 Ore, avevamo proprio detto attenzione, perché la parte variabile bisogna contarla una volta sola. E il parlamentare che aveva scoperto tutto ciò aveva portato proprio nel testo del suo emendamento un brano del Sole 24 Ore. Esattamente, ecco. Così. Comunque domani, questo ne parliamo domani, sempre per festeggiarmi. Esattamente. Per festeggiare il mio 40esimo compleanno. Tutta questa faccenda della Tari che ha tanto indispettito tutti gli italiani, le famiglie e i contribuenti bravi ed onesti. Guardate che sono dei bei soldi, potrebbero essere, infatti, cifre anche importanti. Benissimo. Ce l'aveva segnalato Gianni Trovati appunto già nella puntata del 20 ottobre. Che domani ottobre sarà di nuovo con noi. Allora, detto ciò, posso completare con un'ultima informazione, non è tanto di servizio, è un saluto ad una certo, nostra Debora, fan. Sabato sera ero vicino casa, sono andata a mangiare in un locale di hamburger australiani, non posso dire il nome ma magari molti lo conosceranno, e noi abbiamo una grandissima fan che si chiama Paola, è la manager di questo locale e mi ha detto di salutarti. Ma grazie va Paola, bene? Ti ha detto anche di farmi gli auguri? Sì, perché... no, perché non le ho anticipato del tuo compleanno. Ah, però mi sono dimenticata il testello, mi aspettavo che lei mi riconoscesse e mi ha detto che ci riconosce perché sente i nostri programmi dallo smartphone, dall'iPad, non mi ricordo da quale dispositivo, e se ti colleghi sul sito appunto di Radio 24, per chi con il dispositivo mobile ascolta la radio, compaiono le nostre faccine, e quindi da lì mi ha riconosciuto e ci ha salutato ed è stata molto carina. Ma grazie Paola, e allora un caro saluto a Paola e naturalmente a tutti coloro che ci ascoltano oggi e vogliono sapere tutto, ma proprio tutto, del BTP Italia. E allora partiamo, aspetta lì. Sto fermo. Meteo Borsa. Anche questa c'è di incombenza del lunedì mattina. Lo sai? Ma oggi più che mai mi verrebbe esatto. da dire, cara Debora. Infatti, aspetta che nel frattempo mi ero anche dimenticata di aprire Market Pro, che è la mia piattaforma da cui controllo come funzionano i mercati. Questa mattina funzionavano un po' così, a stento. Erano un po' deboli i listini continentali in questo avvio di settimana, ma come sappiamo le borse sono reduci da sedute molto brillanti, positive. Ci sono tanti fattori che condizionano positivamente in questo periodo l'andamento del mercato azionario in particolar modo, quindi ogni tanto qualche presa di profitto è fisiologica, come si dice in gergo finanziario. Sì, infatti ti ho ascoltato molto attentamente alle 10.30 e ti riascolterò alle 11.30 acutamente. Avidamente, perché quando si parla di danari bisogna ascoltare avidamente, e ho sentito che Milano non andava benissimo. No, Milano perde lo 0,4% adesso. Corre Ferrari, è il caso di dirlo, è il miglior titolo di Milano, più 1,33%, insieme al settore del gas e dell'energia. Italgas più 0,97%, Enel più 0,85%, mentre a trascinare al ribasso Piazza Affari stamattina ci pensano alcuni titoli del settore bancario, ma soprattutto continuano le vendite su Leonardo Finmeccanica, meno 2,89%, ma il gruppo è reduce da un sonoro KO di venerdì scorso, meno 20%, dopo i conti del trimestre, la cosiddetta guidance, e la divisione elicotteri che sta creando qualche problema a tutto il gruppo della difesa. BPR Banca meno 2,79%, Telecom Italia meno 2,74%, ma direi di presentare il nostro primo ospite di questa mattina, che è Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, amministratore delegato di Alfa SCF. Buongiorno. Sì, buongiorno, ben ritrovati. Grazie Gianni, perché ci farà compagnia per tutta la durata della trasmissione, perché lui è un attento studioso del mondo BTP Italia, conosce a menadito tutte le 12 emissioni, compresa quella di stamattina. Poi lo interroghiamo. Esatto, e però ci racconta anche quali aspettative ci sono rispetto a questa settimana sui mercati finanziari. Lupotto, dicevamo un'apertura debole. Partiamo subito con questo focus, che era quello che incuriosiva di più Mauro, quello sulla sterlina, perché noi ci siamo chiesti questo indebolimento della sterlina di stamattina. Infatti, perché dottor Lupotto, non è che non penso che siano le questioni, come dire, alla Weinstein, cioè le molestie, le avance troppo esplicite di qualche ministro a causare questa debolezza della sterlina, o meglio, sarebbe molto romantico, ma mi immagino che i mercati non agiscano esattamente sotto questi impulsi. Direi di no, almeno non a mia conoscenza. E diciamo che la sterlina si muove già da un po' di tempo in un range abbastanza ampio, sia verso il dollaro sia verso l'euro. Questo è dovuto, a mio giudizio, a due fattori che la spingono vuoi in alto vuoi in basso secondo i momenti. Il primo è il fronte, diciamo, della banca centrale inglese, la Bank of England, che ha proceduto recentemente ad un aumento dei tassi e ha dichiarato l'intenzione di continuare questo aumento anche in virtù di un'inflazione crescente. Questo è un elemento a favore di un apprezzamento della sterlina. Dall'altro lato c'è una crisi politica del governo May, che pare evidente, diciamo, membri del suo stesso partito tendono giornalmente a sfiduciarla, quindi lo stesso processo di Brexit procede in modo incerto, e quindi dall'altro lato questi fenomeni indeboliscono la sterlina, che quindi oscilla di giorno in giorno in questo range, diciamo, fra 0,88, 0,87, 0,89. Non mi stupirei di vederla ancora più debole nei prossimi giorni. Però questa sterlina debole in realtà favorisce le società che esportano, di conseguenza la borsa. Infatti Londra è l'unica piazza positiva stamattina in Europa, con un rialzo dello 0,23%, mentre sono in rosso tutte le altre piazze europee. Sempre sul fronte valutario, curiosiamo anche nel rapporto euro-dollaro, che viaggia a 1,16,39 in questo momento. A proposito di dollaro, di Stati Uniti, Lupotto, qua che settimana abbiamo? Venerdì scorso c'è stato un calo sugli indici azionari, hanno registrato delle necessarie, a questo punto, prese di profitto i titoli della tecnologia, che ormai hanno un andamento a verticale impressionante, e qua naturalmente sotto i riflettori rimane sempre la politica monetaria della Federal Reserve, con questo attesissimo aumento dei tassi di interesse previsto per il prossimo mese. I temi della settimana negli Stati Uniti più importanti quali saranno? Decisamente il tema più importante è mercoledì, quando verrà reso noto il dato sull'inflazione americana. È l'ultimo dato, sarà l'ultimo dato disponibile prima, per l'appunto, della riunione Fed di dicembre, dove si deciderà un eventuale ulteriore aumento dei tassi. Quindi è un dato cruciale, perché se l'inflazione risultasse in linea con le aspettative, non ci sarebbero particolari sorprese, ma se fosse un dato con un'inflazione eccessivamente bassa potrebbe indurre la Yellen a non alzare, a non procedere a un rialzo dei tassi della riunione di dicembre, e questo, diciamo, avrebbe un effetto di indebolimento sul dollaro medesimo e anche su un irripidimento della curva, perché, diciamo, siccome ci sono queste attese di crescita dei tassi, i tassi stessi a breve sono già cresciuti e quindi se dovesse esserci l'aumento effettivo, i tassi potrebbero ridiscendere ripidendo la curva. È un dato molto importante quello dell'inflazione di mercoledì. Infatti, come lo è anche in Europa. Qua vedo una situazione, caro Mauro, di diffusa debolezza per le banche italiane a Piazza Affari, tanto per cambiare. Ma infatti io volevo proprio chiamare in causa Lupotto su questa vicenda, perché ancora si discute di valutazione dei crediti deteriorati, di acquisti, adesso viene fuori anche la questione degli acquisti dei titoli di Stato da parte delle banche, della loro valutazione in bilancio. Insomma, sembra che per le nostre banche il clima, visto che questa rubrica si chiama Meteo Borsa, il clima sia sempre, come dire, bruttino, ecco. Magari non è che piova forte, però insomma c'è sempre da uscire con l'ombrello. Così, anche perché tiene ancora banco, per l'appunto, il tema delle sofferenze bancarie, soprattutto italiane, e la sigla che tiene banco è la famosa NPE, che è una sigla che significa sostanzialmente il livello delle sofferenze bancarie sul totale delle esposizioni dei crediti erogati dalle banche medesime. L'Italia, con un 12% di media delle sue banche, è molto al di sopra della media europea, che è il 4-5%. Questo crea preoccupazioni anche a livello europeo. La Commissione europea non a caso ha ventilato provvedimenti per uniformare il trattamento dei crediti in sofferenza, e quindi questo provoca pressione sulle banche. Abbiamo visto settimana scorsa grandissima pressione su Creval dopo l'aumento di capitale che preannunciato da 700 milioni che ha portato il titolo a perdere oltre il 50% in poche sedute. C'è pressione ancora stamattina su Biper, che nonostante abbia dichiarato di non voler procedere ad aumenti di capitale, ha comunque un livello di NPE oltre il 20%, e quindi questo tema Terra Banco, a mio giudizio, non solo per questa settimana ma anche per i mesi a venire, in attesa che le banche si affrettino a sistemare queste faccende. Benissimo, in attesa che le banche sistemino queste faccende, noi andiamo all'altra faccenda finanziaria della giornata, che è molto rilevante. Partiamo. Italia sì, Italia no, Italia pum! La strage tra l'altro non abbiamo mai parlato, ma ti dispiace che si separino i nostri amici di Elio e le storie tese? Beh, mi sento un po' orfano, perché tu le sai tutte. Sì, sono un grandissimo appassionato di Elio e le storie tese e devo dire ho moltissimi dei loro brani. Non so, spero che facciano un po' come i Pooh, cioè concerti d'addio per anni e così saremo un po' meno orfani tutti quanti. Benissimo, allora nel frattempo approfittiamone invece della presenza di Gianni Lupotto per parlare di questa 12ª emissione del BTP Italia. Lo ricordiamo senz'altro, noi ci siamo dedicati con delle puntate a tutte le emissioni, non perché vogliamo ovviamente sponsorizzare un'asta del Tesoro italiano rispetto ad un'altra o una specifica operazione, ma perché per tutti i risparmiatori particolarmente affezionati al titolo di Stato italiano, questa è stata un'operazione che ha sempre avuto una rilevanza specifica in questo senso. È un titolo che è stato pensato proprio nel 2012, circa 6-7 mesi dopo la drammatica crisi dello spread italiano, in un momento in cui c'era una fuga generalizzata dai titoli di debito appunto del nostro paese, e per invece mantenere una quota di investitori domestici sul tesoro italiano, sul debito italiano, naturalmente si pensò proprio a questa operazione. Oggi parte il 12esimo collocamento. Rispetto alle precedenti emissioni ci sono delle differenze, non le raccontiamo noi, Mauro, ma direi che le possiamo far raccontare a chi gestisce tutta l'operazione. Certamente, allora intanto vi ricordiamo che se avete dei dubbi, delle perplessità, volete capire qualcosa di puntuale su questo strumento finanziario, ci potete come sempre telefonare per intervenire in diretta 800 24 00 24. Se volete mandarci sms e whatsapp, il numero è 349 238 6666. E allora a questo punto, Deborah, cerchiamo di spiegare proprio dalla viva voce di Maria Cannata, che è il direttore che si occupa al tesoro proprio di queste emissioni, sì. E quindi la direttore signora, del debito pubblico, la signora del debito pubblico. La signora del debito pubblico, non so se lei sarà contenta di questa presentazione, l'abbiamo sentita pochi minuti fa, perché in questo momento si sta occupando proprio della emissione, esatto, di questo BTP. Ci sono anche Italia. Altre aste di medio termine stamattina, quindi alle 11 entra proprio nel vivo della giornata, come dire, l'organizzazione dell'operazione. E visto lo stato dei conti preferiamo non disturbarla. Esatto. E quindi le abbiamo però chiesto di ricordarci quali sono le caratteristiche più importanti di questo nuovo BTP Italia, quali aspettative hanno al tesoro per questa emissione. Tra l'altro questa rimpiazza il BTP Italia che fu emesso 4 anni fa e fu un'emissione fortunatissima, mm-hmm, dal punto di vista del tesoro e della dottoressa Cannata, cioè è scaduta ieri e ne abbiamo chiesto anche se il tesoro allora ha in programma di proseguire con nuove emissioni nel prossimo anno. Ascoltiamo queste domande. Il titolo ha una durata di 6 anni, così come l'altra emissione che abbiamo fatto a maggio. Il tasso minimo garantito è 0,25% allineato alle attuali condizioni di mercato. È inferiore a quello di maggio che era 0,45%, ma proprio perché le condizioni di mercato sono enormemente migliorate rispetto a 6 mesi fa. Poi, come al solito, il titolo può essere acquistato dall'investitore individuale nei primi 3 giorni dell'operazione, quindi da oggi fino a mercoledì. Può essere anche per chi ha un sistema di home banking ordinato direttamente sul MOT, sulla piattaforma. Sì, e questa è una caratteristica rilevante di questo tipo di emissioni, infatti. Senz'altro. Chi non ha invece questo meccanismo attivo può andare regolarmente in banca o alla posta e prenotarlo. Poi, per il risparmiatore individuale, c'è sempre il premio fedeltà per chi lo acquista al momento dell'emissione e lo tiene fino a scadenza, pari allo 0,4%. Dottoressa Cannata, questa è un'emissione molto importante perché va a rimpiazzare il BTP Italia di 4 anni fa, la cosiddetta emissione valanga, che fu un vero boom perché raccolse oltre 22 miliardi di euro, emissione scaduta ieri. Su questa, dunque, che aspettative avete? Abbiamo aspettative abbastanza buone perché, essendo stato investito così massicciamente in quello di 4 anni fa, ci aspettiamo che almeno una parte sia rinnovata, anche perché tutto sommato questo titolo ha performato bene ed è un investimento molto stabile e molto sicuro. Dottoressa Cannata, sono previste operazioni BTP Italia anche nel 2018 di nuova emissione, oppure vi limiterete, per quello che si capisce ora, solo a rifinanziare quelle che vanno a scadenza? No, anche se ricordo bene, anche nel 2015 non avevamo scadenze, ma un'emissione l'abbiamo fatta. Quindi penso che almeno un'emissione l'anno, anche in anni in cui non ci sono scadenze di BTP Italia, la manterremo. Operazioni invece nuove che mirano a proseguire la sua politica di allungamento della durata del debito italiano, quindi intendo operazioni corpose tipo trentennali o anche oltre, queste ne avete in programma? Da qui alla fine dell'anno no. Ma l'anno prossimo senz'altro sì. Da qui alla fine dell'anno siamo molto abbondanti di liquidità e quindi non abbiamo assolutamente necessità né è opportuno esagerare con le emissioni, ma quando riparte l'anno nuovo senz'altro sì. E questa era Maria Cannata, direttore del debito pubblico italiano, nella prima parte dell'intervista che abbiamo realizzato poco fa. Poi vi faremo sentire anche altri aspetti che abbiamo affrontato con lei, ma andiamo un po' a quelli che possono essere, Mauri, possibili quesiti dei piccoli risparmiatori intenzionati o meno a sottoscrivere questa emissione. Sì, chiamiamo subito in causa ancora Gianni Lupotto. Allora, questo BTP Italia, quindi indicizzato all'inflazione, abbiamo sentito appunto questa cedola 0,25, pardon, è uno strumento che va bene per chi, Lupotto? È uno strumento perché va bene per chi cerca una copertura dal rischio inflazione. Questo è il principale obiettivo del risparmiatore che si accosta a questo strumento. Naturalmente va tenuto conto della durata del titolo, la durata è 6 anni e quindi colgo l'occasione per precisare, perché spesso questo concetto sfugge, che la copertura dall'inflazione si ottiene solamente se il titolo viene mantenuto fino alla scadenza, in quanto in questo modo alla scadenza viene restituito il capitale versato inizialmente. Questa garanzia invece non c'è nel durante, perché se per meccanismi relativi ai prezzi di mercato dell'obbligazione l'obbligazione dovesse perdere di valore durante la sua vita utile, ecco che questa copertura dell'inflazione non ci sarebbe. Quindi il primo punto è importante per il risparmiatore è di ricordare la durata, che è 6 anni, e su questa durata la copertura effettivamente c'è. Seconda considerazione che dobbiamo fare è sull'ammontare della cedola. Le cedole minime garantite, quindi la copertura ulteriore rispetto all'inflazione, via via che si sono accumulate nuove emissioni è sempre andata decrescendo. Questo è dovuto al migliorato merito di credito dell'Italia, sì. in buona sostanza. Poi lo dirà anche Maria Cannata nella seconda parte dell'intervista, infatti. Certamente, però non possiamo definirlo un tasso particolarmente appetibile. Quello che sappiamo è che perlomeno l'inflazione viene coperta. No, tra l'altro, a proposito di aspetti più o meno appetibili, c'è qualche ascoltatore che su WhatsApp ci segnala, come dire, tra virgolette, quella che può essere giudicata una criticità, cioè il fatto che il tasso minimo garantito viene eroso dalle commissioni di gestione del conto titoli o comunque dell'investimento lupotto che si devono versare, evidentemente. Ma secondo lei questo è un aspetto effettivamente che rappresenta un deterrente per l'investimento in questo tipo di strumento, o comunque non ha una natura speculativa? L'investimento in BTP Italia vuole solo proteggere la somma che si investe e non ha l'obiettivo di farci guadagnare chissà che cosa. Questo è vero, ma è anche vero quello che dice l'ascoltatore, anche se va detto che lo 0,20, che è il bollo che tutti noi paghiamo sul conto titoli, è applicato a tutti gli investimenti che abbiamo, non solamente certamente al BTP Italia. C'è da dire che il rendimento è anche eroso non solo da questo tipo, dal bollo, ma anche, ahimè, dalle tasse sulle rendite finanziarie, che per quanto riguarda i titoli di Stato è il 12,50%. Allora, vi fermo un istante perché noi adesso faremo un ulteriore approfondimento su come stanno andando i mercati. Vi ricordo che potete sempre telefonarci o scriverci 800 24 00 24 per chiederci in diretta del BTP Italia, SMS e WhatsApp al 349 238 6666. E adesso, Deborah, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta di denari. Ma dove vai? Vieni in Italia che si sta bene. Bene, si sta bene, si beve bene quando si celebra il compleanno, esatto, di qualcuno. Mostriamo ancora chi sta seguendo su Facebook. Esatto. Potete mandarci domande sul BTP Italia. Ah, pensavo altri regali su Facebook. No. Bravo. BTP Italia, 12ª emissione, parte oggi con Gianni Lupotto, consulente indipendente. Stiamo spiegando la dinamica di questa emissione speciale, perché pur essendo molto simili tutti i 12 BTP Italia che sono stati appunto emessi dal 2012 in avanti, in realtà qualche caratteristica sta cambiando anche alla luce dei cambiamenti dello scenario economico di riferimento. Quindi stiamo analizzando punti di forza e punti di debolezza di questo BTP Italia programmato per oggi. Ma infatti ci sono anche diversi ascoltatori, non so se Deborah vuoi sentire in diretta. Ma volentieri. Ad esempio Andrea da Milano ci fa una domanda di tipo generale. Buongiorno Andrea, ci dica. Buongiorno a voi. Volevo sapere, nel caso in cui nei prossimi anni l'inflazione sia destinata a salire, sì. Volevo sapere la componente di interessi, o comunque anche la componente che mi viene data a rimborso del titolo, che è indicizzata l'inflazione, da considerarsi il reddito da capitale o reddito diverso e quindi sì, compensabile? Grazie Andrea. Grazie Andrea. Lupotto. Gianni Lupotto, peraltro poi da questa domanda andremo anche con un esempio al funzionamento, ammettendo di poter investire 1000 euro in questo BTP stamattina, come si calcola effettivamente il rendimento. Lupotto. Sì, dal punto di vista fiscale ci sono, come tutti gli altri titoli obbligazionari, due componenti: il reddito per l'appunto da interessi e il reddito da capitale. Il BTP Italia ha la caratteristica di avere una componente di capitale rivalutato, che è quella del nominale, e una componente di rivalutazione della cedola. Quindi la cedola è indicizzata all'inflazione di periodo e questo avviene ogni 6 mesi, per cui la parte di cedola, che quindi è versata ogni 6 mesi, dà luogo ad un reddito di capitale, che vuol dire che è un reddito non compensabile. La parte eventuale di rivalutazione del capitale nominale invece è reddito diverso. Quindi, seguendo, se ho compreso bene Lupotto, ammettiamo, come dica lei, che non lo tenga fino a scadenza, lo vendo nel corso di questi 6 anni, ho acquistato a 100, lo vendo a 110, questo 10, quindi le cedole sono altro discorso, questo 10 è un reddito diverso su cui pago delle imposte. Certamente, è così. Allora, sì, prima di sentire, tra l'altro due donne, Mariuccia da Monza Brianza e Anna da Asti, la seconda parte magari di Maria Cannata ce la lasciamo ancora da parte per un secondo momento. Volevo proprio con un esempio, Gianni Lupotto, far capire ai nostri ascoltatori come si calcola il rendimento appunto su un investimento, su un titolo di Stato di questo genere, siccome lei generalmente le piace essere molto chiaro attraverso l'utilizzo di esempi molto molto semplici, allora le chiederei di farlo anche in questa circostanza, magari facendo anche un parallelo con una emissione simile, no? Avvenuta nel passato, l'ultima è stata a maggio scorso. Sì, facciamo un esempio pratico, che è sempre la cosa migliore per farti capire. Oggi sottoscriviamo quindi questo nuovo BTP e supponiamo di sottoscriverlo per 1000 euro, che è il minimo possibile. Fra 6 mesi verrà calcolato l'indice di inflazione rispetto ad oggi, ok? E questo indice di inflazione, supponiamo, estremizzando per farci capire, ad essere un esempio chiaro, che sia cresciuto dell'1%, ok? Questo vuol dire che il capitale nominale, il capitale nominale da 1000 è diventato 1010, capitale dell'obbligazione. Questi 10 euro che si sono rivalutati vengono immediatamente restituiti all'investitore, che quindi ha di nuovo un nominale di 1000 e si ritrova 10 euro sul conto. In più viene versata la quota interessi, che è il famoso 0,25, vedremo se verrà confermato, comunque potrebbe essere questo 0,25, che quindi sono 2,5 euro, questo 0,25 viene calcolato su 1010, che è il capitale rivalutato, e quindi viene versato oltre i 10 euro anche circa 2,5 euro di relativo alla cedola inflazionata. Mm-hmm. Si riparte poi dopo 6 mesi da 1000 per il successivo semestre, ok? Quindi questo avviene semestre, certo, per semestre. Con questo abbiamo probabilmente anche soddisfatto la curiosità di Luciano, che ci chiedeva appunto come avviene la copertura del rischio da inflazione. Questo esempio che ci ha fatto Lupotto ci fa comprendere come avvenga appunto nella via via che l'inflazione segue il suo percorso. Tutti ci aspettiamo anche che risalga, il primo ad aspettarselo è Mario Draghi, come sappiamo, esatto, ma anche noi, perché una risalita dell'inflazione in termini molto contenuti, per carità, vorrebbe dire che le cose, specialmente i consumi domestici, stanno migliorando. Assolutamente. No, volevo leggere invece l'altra curiosa domanda che ci è arrivata al 349-238-6666, è un SMS, ci ha fatto fare molti commenti maliziosi a microfoni spenti con Mauro su questo aspetto, perché c'è un ascoltatore, Lupotto, che ci racconta: la mia banca mi ha chiesto di elevare il mio profilo di rischio, attualmente medio-basso, per acquistare il nuovo BTP. Italia. È corretto? Noi siamo stati maliziosi perché abbiamo pensato non è necessario riprofilare dal punto di vista MiFID un risparmiatore appunto per investire nel BTP Italia, renderlo più rischioso, più aggressivo. Probabilmente forse accanto al BTP Italia magari la banca, l'intermediario vuole piazzare qualcosa di un po' più temerario. Cosa ne dice? Questo è assolutamente certo. Non bisogna, allora, il principio fondamentale è che non bisogna mai modificare il proprio profilo di rischio per acquistare qualche cosa. Casomai bisogna modificare ciò che si acquista in base al proprio profilo di rischio, che è esattamente il contrario. Cioè la propensione al rischio non cambia a seconda degli strumenti che vengono proposti, la propensione al rischio cambia a seconda dei propri obiettivi. Può cambiare nel tempo, ma solo a fronte dei propri obiettivi che variano. Okay? Quindi, atteso che non mi pare che il BTP Italia, soprattutto con scadenza 6 anni, quindi con una duration media medio-breve, abbia possa aumentare in modo particolare un profilo di rischio medio-basso, ritengo che questo sia dovuto al fatto che l'investitore, l'ascoltatore, ha probabilmente nel suo portafoglio degli strumenti più rischiosi, ecco. Oppure gli vogliono proporre degli investimenti più rischiosi. Colpa di Mauro Meazza, che col compleanno è diventato più malizioso, quindi sono tutte cose sono che mi ha messo in bocca a lui stamattina. Sono un po' sto invecchiando e allora sono cattivello. No, sono poetico perché è lunedì e allora a questo punto c'è il momento del sonetto. Solennissimo. Italia mia, pei soldi e pel pallone, doppia fatica in questo dì t'attende. Stasera con la Svezia la tenzone, stamane il BTP che almeno rende lo 0,25 e l'inflazione non teme, pur se sale e non più scende. Lo ministero molto si propone, mentre Ventura il suo domani si spende. Se l'uno e l'altro riescono vincitori, potremo dir che è stato un giorno caldo e non avrà prevalso il gelo artico dove vogliam lasciar quei gladiatori che vengono a San Sir con far ribaldo. Intanto noi sentiam dove va il traffico. Due di denari. Questo è bello. Secondo me bisognerebbe suonare, intonare questo stasera allo Stadio Meazza per invogliare un po' i nostri ragazzi. Per dare ragazzi un po' di carica ai ragazzi. Cosa dici? Sì. Esatto, sì, non ma poi quello tradizionale. Ci sono esempi illustri di inni nazionali suonate con la chitarra elettrica, uno per tutti, Jimi Hendrix. Vabbè. E quindi dicendo questo nome, diciamo spiritualmente, possiamo io anche mi andarcene. Esatto, sì, sì. Potremmo anche andarcene. Allora, torniamo al nostro BTP Italia, perché adesso chiamiamo in causa Pietro Poletto, che è responsabile per il reddito fisso di Borsa Italiana. Buongiorno, dottor Poletto. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Sì, allora, dunque, due cose. O possiamo sentire l'ultima parte dell'intervista di Maria Cannata, così diamo tempo ancora qualche minuto alla Borsa Italiana per raccogliere altri ordini e quindi magari Pietro Poletto ci dà proprio l'aggiornamento last minute rispetto alle operazioni che sono state prenotate fino a questo momento. A Maria Cannata, direttore del debito pubblico italiano, di cui avete sentito già la prima parte dell'intervista nella prima parte della nostra trasmissione, abbiamo chiesto anche se a suo parere i prossimi possibili interventi di Mario Draghi sulle quantità easing. Sapete che da gennaio il QE si dimezza, dai 60 miliardi attuali di acquisti mensili si passerà a 30. Se queste nuove operazioni di riduzione e ridimensionamento della politica monetaria avranno effetti sui titoli di Stato italiani e quindi anche sul BTP Italia. E poi le abbiamo anche domandato, visto che continuano ancora ad essere proposte aste che si concludono con rendimenti a zero e sotto zero appunto per i titoli di Stato italiani, soprattutto quelli a brevissima scadenza, abbiamo avuto l'ultimo esempio settimana scorsa con il bot annuale, le abbiamo chiesto per l'appunto perché con quello scenario un risparmiatore deve avvicinarsi adesso ad un investimento di questo tipo. Sentiamo. Io non credo che ci sia un grande effetto, almeno fino a tutto il periodo in cui la Banca Centrale Europea si è impegnata a prolungare la sua presenza. È vero che ridurrà gli acquisti netti, però è anche vero che c'è l'impegno a rinnovare quello che scade, del loro portafoglio, e quindi la presenza della BCE continuerà ad essere abbastanza cospicua sul mercato l'anno prossimo. Io non mi aspetto grandi movimenti di tassi. Peraltro la cosa più importante è la gradualità con cui gli eventuali interventi di riduzione o interruzione anche degli acquisti e rialzo dei tassi verranno adottati. In questo mi sembra che la Banca Centrale Europea abbia adottato una politica quanto mai attenta a come le sue decisioni possono essere recepite dal mercato, che infatti ha accolto molto bene le ultime comunicazioni. E poi noi beneficiamo adesso dell'innalzamento del nostro rating da parte di Standard & Poor's, che ha creato un clima molto favorevole da parte degli investitori un po' di tutto il mondo. Ecco, a proposito di questo, dottoressa Cannata, continuiamo comunque a vivere una stagione di tassi di interesse negativi sulle principali emissioni del Tesoro. Ancora una volta, la settimana scorsa, per il bot annuale è stato ritoccato un record minimo appunto in termini negativi. Con questa condizione, perché un risparmiatore deve avvicinarsi ad un investimento in titoli di Stato italiani? Allora, un risparmiatore non penso che possa per i tassi negativi andare a investire in bot o in CTZ, titoli corti che portano tassi negativi. Però invece avvicinarsi a uno strumento con un orizzonte medio-lungo, come può essere il BTP Italia o anche strumenti un pochino più lunghi, può avere un senso, perché oramai non si sa quando i tassi riprenderanno la normalità precedente alla crisi. Forse ci sarà un nuovo livello anche di stabilità più basso rispetto a quella che era diciamo tradizionalmente il livello dei tassi precedenti. E poi il BTP Italia, da questo punto di vista, è il titolo più sicuro e defensivo che esista, perché c'è la cedola che sarà fissata in termini reali. C'è il floor, cioè l'impossibilità, qualora ci fosse deflazione, di ridurre il pagamento cedolare. Poi c'è il beneficio invece, in caso di inflazione positiva, di non solo avere la cedola indicizzata e che immediatamente incorpora l'incremento di valore, ma anche il pagamento semestrale della quota di rivalutazione del capitale. Quindi da questo punto di vista il BTP Italia è un investimento in questo contesto di tassi bassi assolutamente vincente. Ancor di più se si consolida la crescita, che fortunatamente stiamo vedendo sta diventando sempre più solida, e che dovrebbe portare nel tempo anche a un po' di incremento di ulteriore inflazione. E allora abbiamo sentito cosa ci ha dichiarato poco fa Maria Cannata, e adesso chiediamo al dottor Poletto come sta andando in diretta questo collocamento del BTP Italia. Ma direi sta andando meglio dell'emissione di maggio, siamo a 1.040.000.000 e come sapete la scadenza che è andata, l'emissione che è andata a scadenza era stata la più grande di tutte, era oltre 22 miliardi, poi in primavera c'era stato anche un buyback da parte del Tesoro di circa 4 miliardi e mezzo, però comunque a scadenza ci sono comunque 18 miliardi nel titolo precedente, che diciamo comunque che concordo con quanto ha detto la dottoressa Cannata, ovviamente siamo in un contesto di tassi molto bassi, quindi gli investitori devono anche imparare a familiarizzare con questa nuova situazione. Ovviamente gli investitori italiani storicamente sono sempre stati abituati ad avere tassi cedolari molto alti, peccato che avevamo anche un'inflazione molto, molto alta, no? Questo magari infatti non era percepito, per cui se abbiamo dei tassi molto, molto bassi, avendo un debito pubblico molto alto, per questo alla fine indirettamente è positivo anche per gli investitori finali. Certo, ecco, c'è una cosa importante tra l'altro, perché una caratteristica di questo BTP Italia, ma le chiedo conferma dottor Poletto, è che le domande degli investitori retail, cioè la gente comune, pubblico indistinto, per così dire, saranno tutte soddisfatte nell'emissione, mentre casomai potrebbe, se queste domande fossero molte, potrebbero rimanere senza assegnazione gli istituzionali. Mi dà conferma di questo dettaglio? Il meccanismo è esattamente questo, a partire da oggi fino a dopodomani, fino al 15, è dedicata agli investitori retail e tutta la richiesta del retail verrà soddisfatta. Invece nella giornata del 16 di giovedì, che è dedicata agli investitori istituzionali, ci sarà un eventuale riparto. Le ultime domande degli ascoltatori che non riusciamo a soddisfare. Allora, Anna da Asti chiedeva se l'inflazione scende al di sotto di un tot, cosa succede? C'è il floor, il pavimento, come indicava prima Maria Cannata. Mariuccia da Monza Brianza, deve essere telegrafica, vediamo se Gianni Lupotto ce la fa risponderle. Buongiorno, allora a questo punto dico, è forse più conveniente prendere un buono postale che dura solo 3 anni e rende lo 0,70%? Mariuccia, grazie. Gianni Lupotto, lo so che le devo far fare una consulenza in 40 secondi, ce la fa a fare quasi a dare una piccola indicazione a Mariuccia? Il buono postale a 3 anni ha un rendimento positivo e quindi si confronta con un BTP a 3 anni che ha un rendimento quasi negativo, è meglio. Per quanto riguarda invece la copertura dall'inflazione, il buono postale non la dà, almeno non quello che ci ha citato Mariuccia, e quindi anche in virtù della durata differente il BTP è da preferirsi se si vuole una copertura dall'inflazione. Perché la scommessa è proprio questa, certo. Se l'inflazione riparte, si rialza, il BTP Italia ha questo vantaggio, questa caratteristica di copertura e protezione. Ottimo, abbiamo terminato qua senza infamia e senza lode, una puntata di, insomma, grande interesse sempre per i nostri ascoltatori. Caro Mauro, di nuovo buon compleanno. Grazie. Adesso andiamo a festeggiare con il caffè che offrirai tu di nuovo a tutti, come hai già fatto. Certamente. alle 10, quindi ti risentiamo.